meno male che nascosto sotto il grigio di città c'è qualcuno che si cerca e che si troverà. Meno male che il destino non va in ferie quasi mai e che l'ora e il giorno il posto lui non li sbaglia mai. Meno male che c'è ancora chi ha le idee come le mie e che quando si innamora ci scrive le poesie. Meno male che mi sveglio e chi vedo vedo te e che il primo tuo buongiorno profuma di caffè. Amarsi un po' è una dolce malattia, la più bella che ci sia. Quando viene non ti va più via. Amarsi un po' nonostante un mondo che non sa neanche che ci sei e che stai con me. Meno male che l'amore non dipende dall'età e che in fondo un tipo strano che fretta non ne ha. Meno male che fa freddo, così ci stringiamo un po'. Oggi fuori il tempo è brutto, qui dentro invece no. Amarsi un po' è una strana malattia, la più bella che ci sia. Quando viene non ti va più via. Amarsi un po' è una dolce malattia che ti prende, che ti fa volare via. Meno male che si piange anche di felicità e che ogni temporale si sfoga e se ne va. Ci sono le stagioni contro la monotonia e che agli innamorati l'azzurro d'allegria.